Giovanni, tu sì, ciao. Chi è? Gian Maria, tu sì. Eia. Sei il basso del radio. Aumenta la radio. Quando parlo la frequenza si lampeggia, capito? Sto provando a vedere se riesco a mettere a posto. Comunque buonasera. Ciao Gian Maria, il radio è bassissimo. Quasi non ti sento. Non ti sento il radio. Lasciami mettere a posto l'apparecchio che è da tanto che non lo sentivo e lo sto mettendo a posto. Perché mi balla la frequenza, capito? Ho capito. Per sentirti ho dovuto aumentare quasi tutto il volume. Pensa un po'. Sì, adesso comunque qualcosa già ho sentito, ma ho dovuto aumentare tutto il volume io. Lasciamelo mettere a posto giù, che è già un anno fermo che sta parecchio e mi sta ballando la frequenza, capito? Sì. Ho capito Gian Maria, allora fallo scaldare un po', fallo scaldare, magari si riprende. Sto provando, scusa un attimino, dai. Ma figurati Gian Maria, ci mancherebbe. Fallo scaldare un po' e può darsi che si riprenda subito. Adesso mi senti giù? Sì, adesso va meglio, sì. Adesso va molto meglio. È già un anno fermo, così che lo so. Adesso sto facendo, magari forse è perché è freddo, ho capito. Può darsi, Gian Maria, non so cosa dirti, ma penso sarà proprio per quel motivo, perché è fermo da tanto. Vediamo un po', va. Vediamo un po', altri 5 minuti e dopo rientro giù. Ok, d'accordo, Gian Maria. Giulio? Sì, Gian Maria. E adesso com'è la radio? Adesso è perfetta. L'ho fatto scaldare un po', capito? Comunque sono riuscito a bloccare la frequenza, perché prima si spegneva e si accendeva la frequenza. E sono riuscita a metterla a posto, ma evidentemente troppo tempo fermo, capito? Ok, ho capito Gian Maria. E poi quando ogni tanto accendi lo fanno scaldare un'oretta, lo lasci anche se non lo usi, lo lasci acceso un'oretta, così non dico tutti i giorni, ma almeno un paio di giorni alla settimana, e così almeno eviti di farti fare quel difetto. Non ce n'è più voglia giù, è quello infatti, non ce n'è più voglia loro. No, prima ne avevo un altro acceso, e anche quello fermo tanto tempo, però adesso ho voluto provare questo a vedere un po', e me ne stavo facendo quel difetto, già sembra a posto adesso, va benissimo, vuol dire che è tutto tranquillo. E allora giù. E tu cosa mi racconti? Niente di particolare. E cosa ti racconto? Sto uscendo poco e dunque non è che ho molte novità. Vado così quando ho necessità di fare qualche commissione e basta, oppure qualche visita, queste cose così. Ormai a 83 anni subito, alla prime, non è che ce n'è molta voglia, come dici tu, hai ragione. Io sono il trattino 88 giù, 88, comincerà a pesare, per cui cosa vuoi fare? No, piace uscendo un po', dai, ma non ce n'è più voglia, non funzionano più le gambe, no. Le gambe, ragazzo, si saltano subito giù, boh. Purtroppo è così, Gian Maria, purtroppo l'età, quando c'è l'età avanzata, incomincia ad esserci meno voglia e meno possibilità anche di fare tanta strada, perché prima facevi chilometri magari camminando, oggi magari fa un pezzettino, anche se lo fai piano piano, però stanca, certo che stanca, ma è così. Purtroppo è così, Gian Maria, cosa ci vuoi fare? L'età non prende nessuno, l'interessante è andare avanti comunque, però in quanto alla giovinezza, quella l'abbiamo già persa. infatti la giovinezza non vuole mai persa, purtroppo arrivata a 70 anni con tutti i malanni, però si rattoppa e tirava avanti piano piano, cosa ci vuoi fare? Oh, per carità. E abbandonato anche la campagna, no, non ci scendo più giù, non mi fanno scendere anche da solo, capito? Così che ho abbandonato, ma si arrangino loro adesso, ho lasciato tutto a loro, per cui mi sono in casa tranquillo, la mattina scendo giù, tutte le mattine, un paio d'ore, così che mi svago così giù. Sì, beh certo, così già va bene. Comunque una passeggiatina anche nei dintorni, nel senso di casa già fa bene, piano piano e sempre muovendosi, però quello è importante. Io lo stesso dovrei fare la stessa cosa, io sto dicendo a te di fare così, ma io ne sto facendo meno di te di strada, per cui, però ogni tanto, ad esempio stamattina una piccola camminata me la sono fatta, perché sono dovuto salire in città, sono dovuto salire per una commissione, per dire la verità sono andato in clinica, sono andato perché avevo necessità di un appuntamento per far visionare tutti i controlli che avevo fatto, no? E li dovevo far visionare addirittura in febbraio, però non trovavo mai l'appuntamento, non trovavo. E oggi allora adesso vado direttamente all'ospedale e vediamo un po' cosa mi dicono. Sai perché non trovavo l'appuntamento? Perché proprio quella dottoressa che mi deve dire tutte le com'è la situazione, aveva tolto tutto il coso, non c'era più sul computer, perché se no io sul computer trovavamo sempre l'appuntamento, adesso non c'è più e se lo fa direttamente all'ospedale, c'è un ufficio, una segreteria apposta e vai lì e se lo fa, ma io non lo sapevo che aveva cambiato, per cui non era possibile. È un macello, gli appuntamenti, è un macello di giù, e via, ne so qualcosa, infatti io adesso, no, ho l'appuntamento al diabetologo il giorno 18 alle 10 e mezzo, l'altro giorno ho fatto una lastra, l'altro giorno ho fatto un'altra visita, e anch'io so così di giù, però ogni tanto ci riesco a avere qualche appoggio, per cui mi sta bene così, dai. Però non è stato facile giù oggi agli appuntamenti, però bisogna essere sotto controllo per il sicuro, guarda. Sino come fai, per carità. Oggi hanno suonato deve essere mia figlia che tutte le sere vengono qua, si chiedevo spegnere per forza perché vengono tutte le sere a fare un paio d'ore di compagnia giù. Chiedo scusa, magari ci sentiremo alla prossima giù. Non c'è problema Giovanni, ci mancherebbe altro, figurati. Vai, attendi che la famiglia è più importante del baracchino, ci mancherebbe altro. Va bene Giovanni, dai, alle prossime, dai. Comunque una piccola chiacchierativa ce l'abbiamo fatta, è sempre un piacere sentirti e ascoltarti. Alle prossime, dai, ci sentiamo. Ciao Giovanni, ciao, buona serata, ciao. Ok, grazie Giovanni, altrettanto, hai cambiato tutto, saluto in casa, dai. Ci sentiremo, ciao, chiudo.